Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. E 6 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero. I guerrieri siete voi e io cercherò di non farvi riposare affatto, ma di così alimentare in voi la voglia di cambiare, perché ogni volta che comincia un anno nuovo, ormai siamo nel 2011, non so se fate fatica a scriverlo oppure già ci riuscite, perché i primi giorni è sempre un po' difficile, i primi giorni sono sempre un po' difficili, sì, si tratta di dover cambiare l'ultimo numero e io spesso sbaglio. Comunque sia, quando si comincia un anno nuovo si ha voglia anche di cambiare, però poi passa il tempo, passano i mesi, niente cambia e tutto torna con me fino al 31 dicembre, in questo caso del 2011, per di nuovo cercare di cambiare qualcosa nel 2012 e via di conseguenza, ammesso che poi non ci sia la fine del mondo l'anno prossimo, ma adesso non ci occupiamo di questo, ma ci occupiamo di cambiamenti. Infatti oggi anno nuovo, vita nuova, vedremo un po' cosa si può cambiare, come è cambiata la nostra lingua, per esempio, quest'anno, e se la vita di qualcuno di noi è cambiata, chi invece ce l'ha fatta, ha voluto proprio stravolgere tutto, chi ci ha provato e poi è tornato indietro, insomma, le esperienze degli ospiti che avremo oggi e anche il cambiamento visto così con un occhio diverso dal solito, come al solito nel riposo del guerriero. Anzi, se avete voi qualcosa da raccontare, qualche cambiamento o qualche proposito che volete farci conoscere, magari per sottolinearlo e impegnarvi poi a eseguirlo, il numero per gli sms 349-238-6666. E poi, come sempre, per voi il premio 1000 euro da spendere in libri, cd e dvd, e ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. Alle 11.30, come sempre, il nostro gioco, quello di Radio 24, vi permetterà di portarvi a casa questo premio, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, che può essere una notizia oppure un personaggio. Il numero verde per prenotarvi anche subito 800 24 00 24 e andiamo con i cambiamenti. Vuole aprire il cielo, però grida forte, sai che correrò. Tutto cambierà, cambierà, sai che cambierà, cambierà, tutto cambierà, cambierà, oh, oh, oh, cambierà. Beh, sì, insomma, si sa, le cose cambiano, la vita cambia e a volte la si vuole proprio far cambiare, ci si impegna per questo, poi ci si riesca o meno, quello dipende da molte cose. Questa era Neffa, intanto, per cominciare Il riposo del guerriero. Alessandro Castagna, benvenuto, buona domenica. Buona domenica. Alessandro Castagna cura un sito che si chiama vogliovivere così.com e è un sito che racconta storie di chi in effetti qualcosa ha cambiato nella propria vita. Esattamente. Allora, come è nato innanzitutto il progetto? Ma il progetto è nato per gioco, nel senso che avevo tre amici che contemporaneamente, nell'arco di poco tempo, si sono trasferiti all'estero. E niente, man mano che quando li sentivo particolarmente soddisfatti. Questo da un lato. Dall'altro c'erano le persone che invece erano rimaste qui e che si lamentavano del lavoro, si lamentavano dello stress, si lamentavano della qualità della vita. E a quel punto mi sono detto: perché non creare un sito dove chi ha fatto una scelta di questo tipo, di trasferirsi all'estero o di cambiare vita, non necessariamente andando all'estero, non racconta la propria esperienza, in modo che chi sogna di farlo possa attingere alle esperienze degli altri leggendo appunto le testimonianze dirette. Ecco, io vorrei capire una cosa, è fondamentalmente l'amore che spinge le persone a spostarsi, a cambiare, o no? Guarda, è una delle componenti, sicuramente tra le più di 600 storie che abbiamo raccontato sul sito, interviste, racconti, molte sono legate a questo fattore, cioè molti si sono spostati perché hanno conosciuto e poi sposato un compagno o una compagna che viene da un altro paese, e questa è stata la molla che li ha fatti decidere di trasferirsi in quel paese. Non è l'unica, ce ne sono altre. Una può essere naturalmente il lavoro, una può essere l'iniziare o cercare di nuove sfide, E un'altra, che quella secondo me è la più affascinante, è quella di cercare e inseguire le proprie passioni, il proprio beh, talento. E in fondo sempre di amore si tratta, perché poi che sia amore verso una persona o amore verso un mestiere, per esempio, o una passione, insomma, sì. sempre quel sentimento è. Infatti. Senti, le persone che però si sono spostate per una storia d'amore, ecco, per essere più specifici, e poi non sempre le storie d'amore sono riuscite a continuare, però la loro passione per il posto nuovo sì, ha continuato? Sì, guarda, tra l'altro l'ultima storia che abbiamo pubblicato di questo ragazzo che si è trasferito a Budapest è la riprova di questo che hai appena detto, nel senso che lui si è trasferito per amore, dopo l'amore è svanito e lui ha deciso comunque di rimanere a Budapest. Beh, ne troverà sicuramente dell'altro, sono sì, convinto di questo. Sicuramente. Ma invece la passione, c'è una passione che così accomuna un po' queste storie oppure sono molto diverse? Guarda, innanzitutto secondo me c'è un minimo comune denominatore che è quello di rimettersi in gioco, quindi la passione probabilmente per le sfide. Ecco, partiamo proprio da qui, adesso ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico, perché vorrei capire quelli che hanno fatto questo tipo di scelta, che cosa avevano da perdere nel loro paese o dove erano, cioè se avevano molte cose da perdere oppure no, perché insomma la chiave di tutto è questo, no? Quanto ci spaventa allontanarci da quello che abbiamo. Tra pochissimo ancora con Alessandro Castagna. Strade in diretta. Traffico in aumento ma ancora abbastanza scorrevole su strade e autostrade, ci sono i primi rallentamenti sulla carreggiata sud della A22 del Brennero da Trento Centro ad Alavio. La nebbia riduce ancora la visibilità al nord sulla A4 in Piemonte, Veneto e Friuli, sulla A22 del Brennero tra Mantova e Verona. Banchi di nebbia in diversi punti ancora tra Toscana e Lazio sull'Autosole e lungo la A14 Adriatica tra Romagna e Molise. Deboli nevicate inoltre sono in corso tra Courmayeur e il Monte Bianco sulla A5. Ricordiamo in chiusura che i mezzi pesanti oggi non potranno circolare sull'intera rete autostradale fino alle 22. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Alessandro Castagna, che cura il sito Voglio Vivere Così, come le persone hanno cambiato la loro vita, stiamo discutendo proprio di questo. Allora ti chiedevo, Alessandro, le persone che hanno fatto una scelta di cambiamento, cosa avevano da perdere nel paese in cui vivevano oppure nella situazione che avevano? Molto o molto poco? Guarda, dipende molto dai casi, in certi casi direi molto, nel senso che molti sono talenti che in Italia non avrebbero trovato sbocchi, parlo di persone che hanno un livello culturale, Ecco, fammi un esempio per capire. Ma guarda, sto pensando per esempio a un ragazzo che, dobbiamo ancora pubblicare la storia, sì. Un ragazzo che... Un'anteprima abbiamo, vai. Scusami, no. Un'anteprima abbiamo. Che in Italia faceva fatica a trovare lavoro ed era appassionato di biblioteche, di libri e di cose di questo tipo. Si è trasferito a Londra, è stato assunto in un'azienda che poi gli ha dato responsabilità e adesso è a capo del restyling, della gestione del più grande gruppo che segue appunto queste biblioteche, che poi sono state convertite grazie a un progetto suo in negozi, quindi in spazi più vivibili, più fruibili a Londra, ed è diventato praticamente il gestore di questa grande operazione. In Italia probabilmente non sarebbe riuscito se non a trovare un lavoro come impiegato, ecco. Ecco. Questo tipo. È interessante perché è una persona che aveva da perdere nel nostro paese, comunque, a parte la passione e il talento, aveva una situazione magari affettiva, una famiglia, eccetera. Sì, guarda, voglio dire una cosa, è vero che c'è ancora questo grosso legame con la famiglia. Beh, insomma, è difficile separarsi, esatto, dalle cose che si hanno. Esatto, siamo italiani, quindi la mamma è sempre la mamma. Però una cosa che è emersa in molti dei racconti che abbiamo pubblicato, sì, è che grazie a Skype, Facebook e questi nuovi strumenti che Internet ha creato, è molto più facile tenersi in contatto con la famiglia. Cioè, parlo per esempio... Uno che ha un Skype riesce facilmente a fare una chiamata anche da molto distante, vedendo le persone con cui interloquisce. Certo. Ecco, quindi dici che le cose, insomma, riesce a rendere più facile la comunicazione in questo senso. Ma sai, noi abbiamo un detto in Italia che è mai la strada, lasciare la strada vecchia per la nuova, che le nonne ci dicevano, e questo ci blocca ogni volta perché non ci fa mai fare delle scelte che a volte stravolgono la vita ma vanno in meglio. Ti leggo qualche messaggio. Per esempio Nick dice: il motto del 2011 per me è cambiamento. Dal 3 gennaio sono single e dal 1 febbraio sarò disoccupato. E questa è chiaramente, questo è un problema, ma lui scrive una bella cosa, perché aggiunge: disgrazia o opportunità? Speriamo che ovviamente sia un'opportunità quella, certo, di Nick. Può diventarlo. Ecco, invece c'è chi ha detto: ho buttato tutto meno le mie figlie, ho 46 anni, infermiere a Canterbury, per cui insomma ha lasciato proprio l'Italia e in qualche modo ha cambiato lavoro e anche paese. Insomma, quindi le storie sono tutte positive, o c'è qualche storia che invece non è finita come avrebbe voluto? Ma no, sicuramente c'è qualche storia. C'è da dire una cosa, che chi torna indietro, che chi chi fallisce, se così si può dire, nel suo progetto, difficilmente lo racconta, perché magari lo vive come un fallimento. Però ci sono i più coraggiosi che lo raccontano. Tra l'altro abbiamo anche qualche storia di fallimento, l'abbiamo pubblicata, perché è giusto far sapere che non tutte le storie sono a lieto fine. E beh, fanno parte del gioco anche quelle. Esatto. Ma chi ha fallito, poi, tra virgolette, ha fallito, perché comunque ha fatto bene a provare, bisogna sempre tentare. Si è ributtato in qualcosa di nuovo o ha rinunciato per sempre? Guarda, dipende dai casi, alcuni hanno ricominciato con qualcosa di nuovo, tutti sono tornati con un'esperienza che li ha arricchiti, questo sicuramente, segnalo, perché lo dicono loro e secondo me è una cosa importante da dire. Alessandro, per chiudere, qual è il tuo cambiamento invece? C'è stato? Tu vivi attraverso il tuo sito, vivi il cambiamento che vorresti e che non riesci a fare? Sì, diciamo di sì. Il mio cambiamento però è in moto, nel senso che il mio sogno è quello di trasferirmi su un'isola, perché amo il mare assieme a mia moglie, vorremmo andare a vivere in un posto di mare, quindi sto lavorando per... sto programmandomi perché questo sogno prima o poi... Ma certo, il tuo sito è una proiezione di quello che vorresti, per cui, e lo so, questa è psicologia spicciola, però comunque funziona, perché in qualche modo stai cercando di costruirti, diciamo così, l'ambiente per poi vivere più serenamente questo cambiamento che immagino farai. Ecco, posso dire un'ultima cosa? Come no? Vai. Quello che, cioè, secondo me, è giusto sottolineare una cosa... per coloro che vogliono leggere il sito, secondo me sicuramente ci sono dei consigli utili perché le persone che raccontano la loro storia, però ecco, il sito dovrebbe essere vissuto più come qualcosa che infonde coraggio nelle persone, perché leggendo le storie di chi ce l'ha fatta, secondo me chi sta pensando magari a timori o a qualche dubbio così, capisce che magari non è poi così difficile riuscire a fare un cambiamento di vita e magari trasferirsi all'estero e iniziare una nuova avventura. Ecco, questa è la lettura che vuoi dargli tu e che ci diamo sicuramente anche noi, ed è sicuramente un buono sprone per andare avanti. Grazie davvero Alessandro Castagna, buona domenica, insomma ti auguro che ci sentiremo quando sarai sull'isola a questo punto. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie, ciao. E da un Alessandro a un altro, Alessandro Rimassa, ciao, buona domenica. Buona domenica. Allora, già autore del felicissimo Generazione 1000 euro. Sì, ormai 5 anni fa Generazione 1000 euro, sì, oggi ho capito. Oggi bisognerebbe dargli un altro titolo. Però. No, lo so, hai ragione, però voi tanto non vi aspettavate un successo così quando avete scritto il libro. No, noi l'abbiamo scritto io e Antonio Incorvaia perché volevamo raccontare la storia di una generazione e non avevamo assolutamente nessuna pretesa, avevamo, ti ricordi all'inizio? Come no, era anche gratuito, si poteva scaricare gratuitamente dalla rete, poi invece è stato pubblicato un film, insomma e tante altre cose. Poi hai pubblicato un altro libro che è Jobbing, abbiamo parlato, la guida alle 100 professioni più nuove e più richieste, ma adesso hai scritto un romanzo invece, quindi insomma hai scritto una cosa diversa. Sì, adesso ho, come dire, ripreso il protagonista di Generazione 1000 euro 5 anni dopo, dandogli in maniera romanzata, però volendo anche reale, tutti quei posti fissi che la vita in generale, la società italiana, secondo i percorsi che nonne e genitori ci hanno un po' insegnato e un po' suggerito essere quelli giusti, gli ho dato tutti i posti fissi della vita. Ecco, quindi Claudio ha tutto. A tutto. detto: ha la casa, ha il lavoro, guadagna bene, ha la fidanzata, come dire, ricca borghese da sposare, ha, diciamo, è la felicità della nonna e dei genitori. Ecco, non fa più parte di quella generazione 1000 euro, ma ne guadagna almeno 2000 al mese. Ma anche, non ho specificato la cifra nel romanzo, ma diciamo nella mia idea anche 2005. Ecco, per cui sta proprio bene, insomma. Solo che non sta forse così. Insomma, quando abbiamo quello che vogliamo, alla fine non siamo mai contenti. Cosa succede dentro, ma io, Claudio? Ambientato Berlino sono io, che è questo nuovo romanzo, l'ho ambientato a Milano, a dispetto del titolo. Milano è una città, a mio modo di vedere, detto da milanese che ama Milano, è una città comunque molto difficile, è una città che ti schiaccia, è una città che ti impone una serie di percorsi determinati. Io, una volta che ho dato tutto nel romanzo a Claudio, gli ho dato anche due grosse difficoltà: da una parte la droga, per riuscire a vivere nello stress di Milano, e dall'altra l'ansia, la depressione, addirittura gli attacchi di panico. Berlino sono io è il titolo del romanzo, senza raccontare tutta la storia, perché a Berlino poi lui invece riuscirà a provare a cercare davvero se stesso. Forse oggi in generale nella società italiana noi seguiamo troppo spesso strade determinate che tutti ci dicono essere quelle giuste, e abbiamo un po' smesso invece di inseguire i nostri sogni, di cercare noi stessi, di cercare veramente di capire che cosa vogliamo da noi, prima di invece metterci su quei binari che il conformismo italiano ci impone. Vogliamo tutti il posto fisso? Siamo così sicuri? Ecco, sì, perché poi quando si ha siamo incanalati negli orari, nei giorni, e questo non ci permette, per esempio, di sviluppare le nostre passioni, se ne abbiamo, no? Per cui, sicuramente, non solo le nostre passioni, ma anche di proprio costruire una vita a nostra misura. Diciamo che tutti i cambiamenti che si sono vissuti, specialmente negli ultimi 10 anni, con tutte le conseguenze della globalizzazione, ci hanno anche apportato a vivere in maniera diversa, a considerare forse la vita in maniera differente rispetto a come ci è stata insegnata, specialmente parlo della generazione dei 30-35 certo, anni, forse, 40 anni. Forse il sito Voglio Vivere Così, del quale abbiamo parlato prima, racconta proprio questo. Alessandro, tu quando hai scritto questo romanzo, in realtà hai cercato di fare una fotografia di una situazione, pur non essendo un saggio, però credo che tu sia partito da una sensazione. Sì, la sensazione è quella che vivo io, che vedo in tanti coetanei, cioè che è vero che il problema del lavoro in Italia c'è, è grande, leggiamo tutti i giorni i dati della disoccupazione. Sui giovani soprattutto, l'abbiamo appena letto, infatti. Però è altrettanto vero che secondo me bisogna immaginarsi strade diverse, nuove strade, cioè non per evolversi veramente non si può pensare di dover tornare al punto precedente, ma bisogna andare a un punto successivo. È chiaro che in una società poco meritocratica, poco trasparente, dove la raccomandazione è ancora la regola quotidiana, poter parlare di flessibilità anziché di precariato è una cosa complessissima, difficilissima, ma è anche vero che se invece l'obiettivo è semplicemente il posto fisso per avere una certezza, che comunque è una certezza economica bassa, e soprattutto per andare a schiacciarsi in lavori che non sono quelli a cui aspiriamo, quelli che vorremmo davvero fare, non credo che oggi quella che è una società globale delle opportunità e delle possibilità sia la strada giusta, perché l'immagine, diciamo, fantoziana dell'impiegato che legge la Gazzetta sotto il tavolo è assolutamente sorpassata. La società è cambiata, dobbiamo, secondo me, andare a cercare una maggiore realizzazione, perché poi il lavoro di fatto siamo noi, nel senso che lavoriamo tutti 8-9 ore al giorno, cioè la maggior parte del nostro tempo. E quindi in Berlino sono io ho raccontato la storia di un uomo ormai, perché a 32 anni si è uomini, che ha tutto ma non ha più se stesso. Allora, valeva la pena davvero di avere tutto? E questa è una bella domanda alla quale è difficilissimo rispondere, ovviamente, e però è bello mettersi in gioco. Alessandro, io non so, perché non ho finito il romanzo, se Claudio poi da Berlino tornerà a Milano o meno. Lo scoprirò, non te lo lascio dire, sennò ovviamente roviniamo il finale. Grazie Alessandro Rimassa, ciao. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica, Berlino sono io e tra poco cercheremo di cambiare ancora qualcosa nella nostra vita. Arrivano tanti messaggi, vi ringrazio, vi ricordo ancora il numero per gli sms, 349-238-6666. La cosa che mi sconvolge, ve lo dico, è che molti messaggi arrivano dall'estero ed è curioso come quindi molti ci stiano ascoltando dalla rete, da internet e non dalla radio, perché non potrebbero riceverla. Comunque sia, un altro messaggio di Marco e Anto, penso Antonella, e dice: noi siamo, ormai viviamo a Nizza, in un anno abbiamo conosciuto molti italiani che sono venuti qui, giovani e non solo, e nessuno così si sogna più di tornare in Italia, immagino, perché insomma Nizza è comunque Nizza. Torniamo tra poco parlando di altri cambiamenti, come vi dicevo, questa volta di casa. Il riposo del guerriero. Ho solo un progetto. Me ne vado in Alaska. Alaska, Alaska? O la città di Alaska? Lassù, dritto, nel bel mezzo. Sì. Nella natura. Cosa fai quando sei là? Quando sei in mezzo alla natura? Cioè, cosa fai? Cosa fai? Vivi, amico. Vivi, certo, questa era La vita di Christopher, non so se l'avete visto, Into the Wild, romanzo e poi film, una storia, insomma, non è una storia allegra, è una storia di cambiamento di questo personaggio che decide di mollare tutto e cominciare a viaggiare, andare a vivere in Alaska. E se non l'avete visto, è un film che sicuramente potrà commuovervi e farvi anche pensare. Andrea Rottini, buona domenica. Buongiorno Stefano e buongiorno agli ascoltatori. Allora, cambio casa, cambio vita, sì. Dal co-housing all'autocostruzione, dalle comunità di famiglia alle cooperative edilizie, come cambiare casa oppure addirittura costruirla e vivere meglio. Sai, per noi italiani la casa è tutto, sì, gli italiani sono quelli che investono di più sul mattone, guai a condividere la propria casa con qualcuno. Esatto, esatto, ma... In realtà è anche questa filosofia, questo attaccamento alla casa e al nido familiare sta un po' cambiando, perché anche c'è un'esperienza che è quella del co-housing, che è nato in Scandinavia negli anni 60 e 70 e poi anche negli Stati Uniti e in altri paesi esteri, che sta arrivando anche in Italia ed esiste una realtà che si chiama Co-Housing Ventures, che sta a Milano e è formata da architetti, da facilitatori di gruppi, da psicologi anche, che aiuta dei gruppi di persone o di famiglie interessate a immaginarsi uno spazio condominio da condividere insieme, per esempio con spazi in comune, saloni per le feste, piuttosto che spazi per lo sport. Ecco, scusami, interrompo Andrea. Niente. Ecco, di conseguenza, da quello che capisco io, il concetto di quella che era la comune degli anni 70, perché in qualche modo si torna lì, cambia. Perché in questo nuovo co-housing esiste comunque il proprio spazio privato, per cui le proprie stanze inaccessibili, diciamo così, quelle dove viviamo la nostra vita privata. Poi invece abbiamo una serie di posti che viviamo in comune, come dicevi tu, i saloni, a volte la cucina. Beh, tantissimi studenti si ritrovano proprio in questa situazione, no? Dove hanno il salotto e la cucina in comune e poi uno ha la stanza, chi si divide per esempio l'affitto. Ecco, una cosa curiosa è che da una ricerca che è stata fatta a Milano, se non mi sbaglio, pare che addirittura il 98% di chi ha risposto ha detto che ormai sta perdendo i rapporti con il vicinato, cioè il vicinato non esiste più ed esiste così la solitudine da un certo punto di vista, e il desiderio sarebbe quello invece di tornare ad avere rapporti interpersonali. Infatti è verissimo, infatti il co-housing si chiama anche vicinato elettivo per questo. Ed è molto importante, dicono gli esperti, la fase di preparazione al co-housing, di costituzione del gruppo e delle relazioni tra le persone che abiteranno il co-housing, e è una fase che può durare anche un anno intero. Ecco, quindi insomma bisogna anche prepararsi in un certo modo, preparare il terreno perché questo accada. E tu credi, Andrea, che nel tuo libro poi non parli solo di co-housing, ma parli anche di costruzione addirittura di case insieme ad altre persone, di capacità di inserimento di nuove persone all'interno della propria famiglia, quindi dare un posto, no? A chi non ce l'ha. Sì. Questo non è facile. Poi ribadiscono, i terreni siamo talmente attaccati alla casa che facciamo fatica. È l'esperienza delle comunità di famiglie, di condomini solidali, che sono nati anche qui negli anni 70, ritorniamo. Perché un po' si parte da lì, con i cambiamenti di oggi e le possibilità di oggi. Sì, il primo condominio solidale è nato a Milano, è la comunità di Villa Pizzone, in cui è una struttura, una casa in cui convivevano alcune famiglie in un'ala della casa e in un'altra una comunità di gesuiti, quindi di religiosi. E questa particolarità, la grossa differenza dal co-housing è che le famiglie condividono anche gli stipendi. Quindi, si dividono il denaro che entra. Esatto, è interessante. Siamo molto lontani da una realtà che ci appartiene. No, capisco che qualcuno ci arrivi e io invidio anche questo qualcuno perché non so se ne sarei capace. Non credo. Andrea, tu hai avuto, finivo proprio con questa domanda. Tu hai avuto esperienze di questo tipo o hai soltanto scritto il libro che contiene tra l'altro molte interviste? Io il libro l'ho solo scritto. Ho avuto varie esperienze di condivisione di casa con ragazzi, colleghi, studenti, all'università e anche dopo. E quindi è un'esperienza comune Diciamo che però alcune cose, come hai detto prima, non riusciresti a fare, almeno per ora. Insomma, dividere lo stipendio con tutte le persone che... Però è certo che dal punto di vista della solidarietà sarebbe un ottimo passo avanti. Ti ringrazio molto, Andrea Rottini. Buona domenica e grazie. A voi. Grazie, vi ricordo ancora il libro, Andrea Rottini, Cambio Casa, Cambio Vita. Allora, arrivano molti sms. Chi è molto d'accordo su quello che si dice, chi invece... aggiunge, però secondo me bisogna rimanere coi piedi per terra, perché gli interventi fino ad ora sono sogni, andare su un'isola, eppure c'è chi l'ha fatto, però è quello che volevamo dire. Sappiamo che per molti restano sogni, ma quello che il nostro primo Alessandro, chi cura il sito Voglio Vivere Così, diceva è che molti ce l'hanno fatta, e quindi il suo sito serve proprio a dare una spinta a chi vorrebbe ma non può, non osa. Cristina Pagetti, ciao, buona domenica. Anche a voi, ciao a tutti. Ecco, è sugli sci, penso, Cristina, in questo momento. Sì, sono in Val Ferret. Ti ringrazio molto per aver accettato di partecipare. Allora, tu invece curi un altro sito che si chiama scambiocasa.com. Sì, esatto. Sentiti a casa dovunque nel mondo, che meraviglia. Come funziona questo sito? Allora, funziona così, ci si può iscrivere per 3 mesi, per un anno intero, si predispone una scheda della propria casa, con chiaramente, visto che si scambia casa per andare in vacanza, si indicheranno le località nelle quali si vorrebbe andare in vacanza. Chiaramente si descrive com'è la propria casa, con foto, e poi una volta iscritto il circuito si verrà contattati e si possono anche contattare tutti gli altri soci e definire così degli scambi, che possono essere scambio di casa o scambio di ospitalità. Allora, scambio casa vuol dire che io lascio libera la mia casa, tu mi lasci libera la tua e facciamo vacanze in contemporanea in questo modo. Oppure possiamo, per chi ha una casa grande o magari chi è single, le coppie che sono rimaste senza figli perché sono andati fuori casa, hanno spazio, possono ospitare e poi a loro volta essere ospitati. Ecco, quindi in questo senso non c'è un guadagno da parte di nessuno, perché non si chiede una tariffa tipo un affitto, ma quello che si paga è lo scambio, da quello che capisco. Assolutamente no, è tutto basato su un principio di reciprocità. L'unica cosa che noi chiediamo sono 32 euro per 3 mesi di iscrizione, oppure 84 euro per un anno intero di iscrizione, e poi fai tutti gli scambi che vuoi. Ecco, serve per la gestione ovviamente delle persone, certo. Anche perché credo che ci sia una sorta di garanzia di lealtà da questo punto certo, di vista. C'è anche un meccanismo di feedback che viene usato ad certo. esempio da alcuni siti che si occupano di compravendite su internet, anche noi l'abbiamo messo in piedi questo meccanismo di feedback che consente un po' di monitorare come vanno gli scambi. Ecco, io volevo chiederti questo, Cristina, e gli italiani che cosa scambiano? Perché io me li immagino più facilmente propensi a scambiare la seconda casa piuttosto che la loro casa prima. Questo è vero, diciamo che all'inizio gli italiani sono sempre un po' reticenti, poi però una volta che provano c'è chi dopo aver scambiato la seconda casa predispone una scheda anche per la prima casa e quindi decide magari di ospitare nella prima casa. Ecco, fanno un esperimento, diciamo così. Sì, noi. Sì, invece certo. forse gli stranieri sono un po' più morbidi sì, in questo senso. Diciamo che sono un po' più open mind di noi, però quando ci provano poi gli italiani, guarda, noi abbiamo un tasso di rinnovo di iscrizione che va oltre il 90%, questo la dice lunga, cioè vuol dire che poi quelli che provano si riscrivono, anche perché veramente abbatti il costo delle vacanze e vivi come uno del luogo, l'importanza è proprio quella dell'esperienza culturale, chiaramente, non solo quella economica, ma anche quella economica, se ci pensi, una famiglia che deve fare viaggiare 3 o 4 persone, diciamo che in questo modo riesci a concederti delle vacanze più lunghe e andare in posti che non avresti mai immaginato di visitare. Ecco, indubbiamente. Sono stata dappertutto con lo scambio casa. Ecco perché. California, Nord Europa, dappertutto. Scusa, Cristina, il sito è nato perché tu hai cominciato a sfruttare questa possibilità perché la conoscevi o l'hai sfruttata dopo aver fatto nascere il sito? No, allora innanzitutto il sito non l'ho inventato io, è nato nel 99 in America un sito che si chiama homeexchange.com, noi siamo la costola italiana, sì. In realtà ci sono più di 10 siti in diverse lingue in tutto il mondo e quindi tutta una serie di referenti in giro per il mondo che seguono i soci, io come io seguo gli italiani, in altre parti del mondo ci sono altre persone che si occupano dei soci stranieri. Ecco, ma ritorno alla domanda, ecco, hai cominciato a fare questo lo scambio case, sì. Dopo aver scoperto il sito. Io ho prima scoperto il sito, fatto gli scambi e poi mi hanno chiesto di diventare la referente e io ho accettato di buon grado. Ecco, ma come ti sei buttata? Perché l'hai fatto in un momento in cui ben pochi conoscevano questa possibilità, anche perché non c'era neanche il sito italiano, per cui la bisognava prima comunque volta è stato cercarlo. 10 anni fa. Appunto, certo. Sei stata una pioniera in questo senso. Quindi. Sì, in realtà già gli italiani che lo facevano c'erano, anzi si narra sì. che lo scambio casa lo inventarono gli ambasciatori che andando in giro per il mondo e volendo disporre di case di un certo pregio impararono così a scambiarsi le loro case e a lavorare all'estero. È incredibile perché sì. ogni volta scopro che noi italiani siamo noi gli ideatori di qualunque cosa, no? Ma davvero, ogni volta che tratto un argomento si scopre che è partito dall'Italia, poi però ce ne dimentichiamo assolutamente, lo perdiamo per poi cercare di riappropriarcene a questo punto. Ecco, per cui mi fa piacere sapere che ancora una volta è la creatività degli italiani che muove il mondo. Basterebbe però rendersene conto. Chissà se in questi 150 anni che festeggiamo quest'anno riusciremo a rendercene conto. Cristina, io ti lascio alle tue piste. La tua prossima casa dove andrai, quale sarà? Ma io sto cercando di definire uno scambio per Berlino per le vacanze di Pasqua. E tu dove la offri? Io ne offro una in campagna tra Milano e Pavia e una al mare vicino a Genova. Che meraviglia. Grazie Cristina Pagetti. Grazie a voi. Buona domenica. E buone vacanze. Speriamo di farle. Scambiocase.com. Allora, Francesca Dragotto, ciao. Ciao, buongiorno. Ti becco in Spagna anche a te, grazie, buon anno. Ti becco in Spagna, io so che sei lì. Ti ringrazio per aver accettato di essere con noi anche questa domenica. Allora, glottologa Francesca Dragotto, io ho parlato dell'Italia perché parlando di cambiamenti ho scoperto, anzi mi hai fatto scoprire tu, che c'è una parola che attribuiamo così tanto all'estero, agli americani, agli inglesi, invece fa parte della nostra cultura, arriva insomma da noi ed è una delle parole più usate nel 2010 e che hanno cambiato un po' il modo di parlare da questo 2011 in poi. Sì, Se l'argomento di oggi riguarda l'idea del cambiamento, io dal mio punto di vista non posso che contribuire con la parola escort, una parola che nel 2010 è entrata nell'uso vivo dell'italiano, anche se in realtà circolava già da almeno due decenni già solo in Italia, ma che ha una storia che ci permette di arrivare fino alle origini dell'italiano, come hai detto poc'anzi. Infatti si tratta di quello che tecnicamente chiamiamo un prestito di ritorno, ovvero una parola italiana che è passata ad un'altra lingua e che poi l'italiano in tempi recenti ha recuperato. Se posso permettermi di delineare un po' la storia, lo vorrei fare perché si tratta di una storia estremamente affascinante. Infatti lo farai, Francesca. Io do gli aggiornamenti sul traffico, così poi hai tutto il tempo che vuoi per raccontare la storia della parola escort. Il riposo del guerriero. Anno nuovo, vita nuova, questo è l'argomento del riposo del guerriero di oggi. Intanto ridico il nome dell'autore di Cambio casa, cambio vita, è Andrea Rottini con due T. Lo dico perché l'avete chiesto nei vostri sms. Sono al telefono con Francesca Dragotto, la nostra glottologa. Stiamo parlando delle parole che hanno cambiato un po' il modo di dire italiano nell'ultimo anno. E una di queste parole è escort, che ormai si usa e che ha una storia molto molto antica. Francesca, a te la parola. Grazie. Allora, parliamo di mutamento, quindi parliamo di cambiamento. Dobbiamo dire che dietro escort ci sono almeno tre tipi di cambiamento. Il primo è connesso chiaramente con l'interdizione. Dire escort ci permette di non utilizzare il termine prostituta, che soprattutto in un ambito quale quello della comunicazione giornalistica, penso principalmente a quella radiofonica o televisiva, potrebbe risultare sconveniente. Il secondo tipo di cambiamento è quello a cui facevo riferimento prima, quello di tipo interlinguistico, ovvero quello che implica il rapporto dell'italiano con altre lingue. Il terzo è un tipo di cambiamento che invece non esiterei a definire eurolinguistico, perché, come dirò tra poco, in realtà non è stato solo l'inglese a riprendere il termine escort dall'italiano scorta, ma insieme all'inglese lo hanno fatto anche il francese e lo spagnolo. Quindi l'italiano ha fornito una matrice comune a un insieme di lingue che caratterizzano oggi l'Europa, almeno l'Europa occidentale. Escort quindi da dove arriva? Dalla parola? A prima vista si potrebbe pensare, e ci sarebbero tutte le ragioni per poterlo fare, che alla base di escort ci sia l'italiano scorta, una parola italiana che troviamo attestata. Beh, certo, una donna che ti faccia da scorta durante il tuo viaggio, per esempio, no? Certamente, se infatti prendiamo la lessicografia ufficiale, e tendo per il momento a sottolineare ufficiale, troviamo che escort è l'accompagnatore, alcuni dizionari parlano addirittura di accompagnatore in senso turistico, oppure l'accompagnatore in senso generale. L'accezione di accompagnatore a pagamento, inizialmente non necessariamente da impiegare in prestazioni sessuali, ma da impiegare in situazioni ludiche, l'accompagnamento in una cena, a teatro, lo troviamo attestato però dal 1992, nella fattispecie in un articolo della Repubblica che introduce per la prima volta il termine, almeno nei documenti scritti di cui disponiamo, per parlare di un'agenzia che in quell'anno veniva aperta in Russia proprio per fornire dei servizi di accompagnamento spiccatamente sessuali a pagamento. Per cui in realtà l'italiano ha dimestichezza con questo termine già da almeno 20 anni. La differenza sostanziale e il motivo per cui il 2010 invece ha fatto da sdoganamento per il termine è che, essendo stato il termine stesso implicato in una serie di scandali politici a sfondo sessuale, il parlante l'ho avuto a disposizione per poterlo poi estendere ad una complessità di reti d'uso che prima sarebbe stata inimmaginabile. Certo. Quindi quello che voglio dire è che mentre prima poteva essere normale trovare il termine escort cercando tra agenzie che, destinate a fornire questo servizio, adesso è normale trovarlo in qualsiasi circostanza, anche in circostanze ufficiose, in cui ci si debba riferire a questo ambito, a questa professione. Beh, sai, una volta quando non si voleva dire prostituta si diceva peripatetica, per esempio. Certo. Ecco, invece adesso si dice escort. Senti, scusami, non volevo interromperti, no. Però hai toccato un punto che è interessante, perché ogni volta che si parla di interdizione, le brutte parole, le cosiddette parolacce, quello che caratterizza tutti gli ambiti colpiti dall'interdizione è che ci si trova di fronte ad un'enorme sinonimia, non troviamo mai un solo termine, ma proprio perché un termine diventa disdicevole, non lo si deve usare, soprattutto in una situazione ufficiale, si cerca un nuovo termine che possa sembrare più distante, che possa non richiamare la realtà a cui si fa riferimento. Peripatetica non ha nessun elemento apparentemente che abbia a che fare col sesso, e lo si usa per evitare di usare la forma sconveniente. Esatto. E invece, tornando a escorting, sì. Per chiudere, tu dicevi che non è scorta, ma arriva forse da pelle. Dico bene. Allora sì, la mia ipotesi è di andare ancora più indietro, perché dal punto di vista formale, come dicevo prima, nulla osta a ritenere italiano antico scorta, l'italiano già dantesco, che significava accompagnamento prima in senso militare, poi anche in senso ludico e poi infine, ma parliamo di alcuni secoli dopo, in senso amoroso e cavalleresco, come l'antecedente di tutta questa trafila. Però se prendessimo italiano scorta, participio passato del verbo scorgere, che significa appunto guardare, e che soltanto a partire dalla formazione del sostantivo significherebbe accompagnatore, se lo prendiamo come punto di partenza, non risolviamo la questione del sesso. Allora la mia ipotesi è che invece nel caso di scorta si siano sommate il valore di nel caso di escort, sì. Italiano scorta, ma poi soprattutto escort e poi italiano escort, si sia sommata l'idea dell'accompagnamento che già trovavamo in scorta, più l'idea del sesso che troviamo in una parola latina che è scortum, ma che veniva utilizzata sempre al plurale scorta, trattandosi di un nome neutro. Questo scorta, secondo scorta latino, significa pelle, cuoio, e lo troviamo attestato per indicare anche gli abiti delle prostitute, nonché gli atti sessuali, dando vita a una forma equivalente a quella che troviamo nell'italiano non certo aulico, ma sicuramente pasoliniano, farsi una pelle. Quindi, ecco, quindi fondamentalmente le glottologhe servono a questo, a trovare, nel senso che è una scoperta interessante comunque quella che la parola escort ha un doppio significato, quindi in realtà è una parola ancora più intelligente di quello che si possa pensare. Ancora più intelligente, ancora più antica e soprattutto significativa di quell'unità culturale che è costituita dal latino, che poi esatto. Riemerge a distanza ancora di tanti oggi tanti. È ancora una volta nostra, ecco, questo poi alla sì. Fine volevo dire di tutto questo racconto è che ancora una volta una parola nostra e non invece altrui, anche se ha dovuto fare il giro del mondo per tornare in Italia. Grazie Francesca Dragotto, e a questo punto grazie, buon rientro in Italia. Ciao, grazie. Buona domenica, ciao. Grazie. Venia, ciao. Potete farmi donna? Oh, caro, che felicità! Vieni. Sì. Sapevo che avresti capito. Non guarire, rilassati. Sei sicuro? Ricorda, chi bella vuole apparire, okay. Ora un bel respiro profondo. Lifting istantaneo. Oh. Beh, non si vedranno mai quei fili sotto la parrucca. Questo al mattino ha già una barba da pomeriggio e ti preoccupi per i fili. Va bene, andiamo col trucco. Quello che avete sentito è il problema quotidiano di Enrico Dalceri. Ciao Enrico, buona giornata. Sei forte, va. Era Mrs. Duffire, ovviamente il film, però Enrico Dalceri si trova a dover cambiare ogni giorno della sua vita, almeno quando è in scena. Infatti Enrico Dalceri interpreta l'Amabile, uno dei personaggi dei Legnanesi. Chi non è lombardo e forse non conosce questo gruppo di attori all'inizio oratoriali, correggimi se sbaglio Enrico, no, per cortesia. Ecco. Hai studiato. L'oratorio, sai, andavo a vedere lì quando c'erano i primi, ancora quando ero molto piccolo, quindi conosco bene la loro storia, almeno credo di saperla. Comunque sia, nell'oratorio non potevano esibirsi donne. Bravo. Per cui i ragazzi interpretarono i ruoli femminili. Esatto. Questa tradizione si è mantenuta con un grandissimo successo di pubblico, perché ogni sera fate il tutto esaurito. Esatto. Ancora oggi non ci sono più i Felice Musazzi, per esempio, insomma la Teresa di un tempo, però ci siete voi che avete studiato e devo dire copiato anche il Modi, degli attori. Sì, praticamente la nostra scuola è stata lavorare con loro quei pochi anni che abbiamo lavorato con loro, che ci hanno insegnato moltissimo, Tony Barlocco, Mabilia e Felice Musazzi, la Teresa, dei tempi che furono, coloro che hanno veramente iniziato questa tradizione, che ormai è una tradizione. Certi a Milano dicono non c'è Natale se non arrivano gli agnanesi come il panettone. È vero, si fanno anche tante risate, il pubblico, tra l'altro voi giocate anche molto con il pubblico, perché molto, resta molto sempre quest'idea un po' oratoriale dello spettacolo. Sì, no? infatti Antonio, che la Teresa dice appunto che noi abbiamo abbattuto le barriere, questo gioco di parole, tra il pubblico e gli attori. Cioè noi avete sfondato la quarta parete fondamentalmente. Esatto. Ecco Enrico, io volevo chiederti questo, com'è possibile riuscire a interpretare un ruolo femminile tutti i giorni senza sembrare una donna, perché è difficilissimo, cioè voi riuscite a interpretare le donne senza esagerare, no? Senza fare le macchiette, che è molto difficile secondo esatto, me. Appunto è questo che ci ha insegnato Musazzi, lui ogni sera prima di iniziare lo spettacolo continuava a dirci e ci faceva vedere come, fa ricordatevi che voi siete uomini vestiti da donna e questa è la nostra chiave del successo. Fa. Nel momento in cui uno si immedesima troppo nelle parti femminili, non riesce più a essere ironico ed essere spiritoso, diventa un po' grottesco. È molto vero. Esatto. Per cui noi piano piano abbiamo imparato questa cosa da Musazzi, per cui... Enrico, quanto è difficile appunto questo? Appunto, non è come tutti, Dustin Hoffman, tutti i grandi attori si sono vestiti da donna, però non è la parrucca che fa ridere, non è il travestitismo, è il sapere portare la parrucca, sapere entrare nei panni femminili con una certa ironia. Dustin Hoffman ci ha insegnato, per esempio, in questa, oppure in vari altri attori che si sono messi da donna. Bisogna proprio entrare con questa cosa di non dimenticarsi di essere uomini. E non è facile. Ecco, poi, quindi fondamentalmente bisogna cambiare mantenendo però sempre se stessi. Esatto. Questo è la seconda cosa, è una cosa molto importante, non diventare mai volgari, sia nelle parole che nei gesti. Questa cosa è veramente... ce l'ha insegnata Musazzi. Enrico, siete molto bravi, invito gli ascoltatori a andare a vedere Le Agnanesi se mai l'avete fatto e a studiare anche la loro storia, perché riescono insomma a ripercorrere e a raccontarla ogni giorno in scena a Milano al Teatro Smeraldo in questo momento, ma poi la tournée ovviamente andrà in giro ancora. Allo Smeraldo saremo fino al 13 febbraio, per cui avremo tempo appunto di vedere tantissima gente. Infatti ringrazio tutti i nostri spettatori perché ne arrivano tantissimi ogni sera, veramente. Grazie anche a voi per farci divertire, magari poi ci risentiremo prima della chiusura della tournée. Grazie Enrico Dalceri. Grazie a voi, Mabilia, che dir si voglia, ciao. Il riposo del guerriero. 11:04, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero. Oggi ci occupiamo di anno nuovo, vita nuova, di cambiamenti in un modo o nell'altro. Chissà poi chi fra gli ascoltatori riuscirà veramente a cambiare, chi vorrà farlo, perché poi tanti non hanno nessuna intenzione di cambiare, che va bene anche così. Solo che all'inizio dell'anno sempre, no? Ci si inventa qualcosa da fare di nuovo, magari appunto cambiare posto, vita, lavoro. Allora, io volevo ricordarvi che alle 11:30 ci sarà, e questo non è cambiato, il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri, CD e DVD, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La soluzione può essere o una notizia della settimana oppure un personaggio del passato, del presente o di fantasia. Il numero verde per prenotarvi è questo, 800 24 00 24. E siccome all'inizio di ogni anno ci diciamo che dobbiamo metterci in forma, dobbiamo metterci a posto, dobbiamo cominciare finalmente una dieta equilibrata quotidiana, io ho pensato di sentire il nostro fidato Henri Chenot. Ciao Henri, buona domenica. Ciao, come andate? Bene? Bene, benissimo, grazie. Anno nuovo, vita nuova, anche dal punto di vista dell'alimentazione, immagino. Beh, voglio dire che io lo vedo con tutti i miei clienti che mi dicono sempre: ah, adesso quest'anno cambio tutto. E cosa cambiano? E beh, ogni anno mi ridicano che cambiano tutto, no? Ma cosa vuol dire che cosa cambiano? Allora, giustamente, no, perché la gente sono deciso a cambiare, certo, vado a modificare. Sì. Boh, e alla fine praticamente lo fanno per un mese, prendono la targa, prendono, se vuoi, l'abbonamento di una palestra, prendono tutta una quantità di cose, la palestra ci vanno due o tre volte, dopo non ci tornano più, e il livello praticamente dell'alimentazione e della nutrizione per perdere peso, per sentirsi in forma, lo fanno anche per poco tempo e dopo ricadono dentro le cose. Perché? Perché si complicano troppo la vita. Ecco, infatti è proprio quello che volevo chiederti, perché voilà, un po' mi ci rispecchio in questa cosa. Sì. Forse si vuole fare troppo e subito, invece c'è un sistema per diluire nel corso dell'anno il comportamento e quindi a questo punto mantenere uno standard che ci può giovare. Sì, in più devi fare delle cose che sei in grado di fare. Certo. Voglio dire che, per esempio, l'attività fisica, no? Non puoi andare in palestra a fare di tutto, muscoli e tutto. L'importante è mettersi in moto, rimettersi in moto per la gente che non fa attività fisica, e fare delle cose fattibili, non delle cose che sono incapaci di fare. A livello alimentare è la stessa cosa. Voglio dire, a livello dell'alimentazione la gente deve venire conto di multifattore. Allora, esistono fattori determinanti che sono... Che tipo di planning hai durante una giornata? A che ora ti alzi? Dove mangi a mezzogiorno? Mangi a casa? Non mangi a casa? La sera a che ora entri? Ecco, partiamo quindi dal comportamento quotidiano, esatto, dalla nostra agenda. Dunque, bisogna farlo praticamente completamente in adequazione con quello che tu sei capace di fare. Che il tempo ti permette anche di fare. Perché tu dici, se io sono costretto a mangiare fuori ogni mezzogiorno, non potrò certo seguire un certo tipo di alimentazione, per esempio di dieta, o allora perché rientro troppo tardi a casa per mangiare o farmi da mangiare. Certo, sono le due cose. Allora, vogliamo cercare, possiamo comunque così creare una tabella per i nostri ascoltatori? Assolutamente, però andiamo a crearla praticamente dentro qualcosa che è logico, che è scientifico e che fa parte della natura umana. Non possiamo creare delle cose che sono fuori regole e fuori legge. Qualcosa che possiamo mantenere fino al 31 dicembre 2011. Esatto. Allora, la prima legge da ricordare sempre e per sempre è che l'essere umano può mangiare unicamente per 24 ore. Ok? Sì. Bene. Partendo da questo presupposto, vuol dire che di tutti i modi tu... se vuoi tenerti bene, se vuoi essere in forma, se non vuoi ingrassare, non puoi consumare del cibo per due giorni o tre giorni. Però non puoi neanche appauvrirti dei cibi, non puoi avere delle restrizioni troppo forti. Devi dare tutti i giorni all'organismo quello che lui ha bisogno, per un motivo semplice, è che lui tutti i giorni è costretto a ricostruire una quantità importante praticamente di cellule che vanno via. E soprattutto, andiamo a prendere un esempio tipico, no? Riguardate le proteine. Sì. Quanto mangiare le proteine? Boh, l'abbiamo già detto dentro una puntata, però possiamo ripeterlo. Il vostro corpo le proteine rappresentano 25% del vostro peso. Benissimo. Tutti i 14 giorni, dunque due settimane, c'è un turnover completo, vuol dire che vanno completamente ricambiate. Benissimo. L'organismo recupera l'80%, le riproduce in proteine, dopo noi dobbiamo prendere dunque 20%, che vuol dire in peso netto 35-45 grammi giorni secondo l'età. Dunque, questo sono indispensabili. Come sono indispensabili? Fai scegliere il momento o i due momenti della giornata dove puoi prenderli. Per esempio, io direi che la cosa più vantaggiosa è prenderle, perché le proteine in più, quando le mangi, ti togliono un po' la fame, no? E per quello che talmente gente vuole fare diete iperproteiniche, ma prendono talmente troppo proteine che provocano grossi problemi a livello della salute. Quindi non va bene neanche quello. Allora, certo. Secondo l'attività che hai, sì, a mezzogiorno praticamente devi scegliere di consumare un panino, parliamo chiaro, perché certa volta praticamente la gente a mezzogiorno ha il tempo di mangiare un panino. Allora tu dici, va bene, mangi un panino, non è il maximo, però dentro il panino vado a provare di avere delle proteine, per esempio, no? Allora puoi scegliere che anche se non sono al maximum, le proteine praticamente che possono venire da un buon prosciutto. Un panino con la frittata. Con la frittata no, perché lì sono grassi saturi che sono completamente diversi. Però puoi prenderlo per esempio come un buon prosciutto, ossia la possibilità come un pezzo di carne freddo all'interno che ti fanno riscaldare. Al roast beef, per esempio. Per esempio, no? Beh. Dunque, vuole dire che se no, a questo punto tu decidi di prendere dei glucidi che sono necessari, carboidrati. Allora vai a prendere, dire, vado a prendere il riso, vado a prendere la pasta e vado a prenderle praticamente con verdura. E sai benissimo che a questo punto rimane la sera, dove la sera devi consumare delle proteine. Allora la sera, come vai in generale a casa, a questo punto approfitti per prendere una proteina meglio, per esempio invece di prendere il prosciutto puoi prendere del pesce, puoi prendere un pollo praticamente di buona qualità, puoi prendere praticamente questo tipo di cosa ancora di nuovo con verdura. Quelle sono le cose semplici da fare, non sono delle cose molto complicate da fare. Però in anteprima il grosso problema in Italia è quello che la gente prende la mattina, sia la mattina ingoia velocemente un caffè, un cappuccino, magari con una brioche, sì. Voilà, e quello non va, è lì che iniziano i problemi. E vedi che durante la giornata c'è tanta gente che ha dei fattori che sono dei fattori di sonnolenza, o hanno dei fattori di vuoto, di stanchezza durante la giornata. Meglio con una spremuta? Sì, ma la spremuta, attenzione, perché generalmente io lo vedo, la gente la beve troppo velocemente la spremuta. No, è meglio mangiare una frutta, sì, o frutta, questo senz'altro, perché in più all'interno hai delle fibre. Dopo puoi prendere praticamente una bevanda calda e magari il caffè, se vuoi a tutti i costi il caffè, vai a prenderlo più tardi, verso le 10 o verso le 9, ecco, con un po' d'acqua. E a metà, per finire, a metà giornata, che cosa, quando abbiamo quella fame delle 4? A metà giornata e mezzogiorno, le 4 non esistono. Sia a mezzogiorno hai mangiato carboidrati, sì, hai meno fame verso le 4. A questo punto puoi consumare praticamente una frutta se francamente hai bisogno. Se no è meglio evitare e passare a aspettare la sera. Senz'altro, a condizione di non mangiare troppo tardi la sera. I limiti della sera praticamente sono le 8, non dimentichiamolo. Questa è una cosa importante, ma è difficile poterla rispettare. No, però quelle sono le regole, perché la gente che va a mangiare purtroppo alle 9, alle 10, dopo, attento, oggi vedi, di più in più, noi lo verifichiamo, gente che ha grossi problemi di insonnia. Certo, perché poi c'è la digestione. Di questo poi parleremo in una puntata, la dedicheremo al tempo, sicuramente faremo proprio una chiacchierata su quello che sono i tempi giusti per alimentarci in modo corretto. Intanto speriamo, ecco, il buon proposito per quanto riguarda l'alimentazione per il 2011 venga messo in opera e duri fino al 31 dicembre di quest'anno, e ti ringrazio, Henry. D'accordo, allora soprattutto buon anno ancora a tutti, grazie, e buona salute, e andiamo a aiutarvi durante l'anno anche a vivere un po' meglio. Certo, ci mettiamo già all'opera, grazie Henry, buona domenica. Grazie a te. Ciao. Come si cambia per ricominciare? Come si cambia per ricominciare, Nicoletta Carbone, è vero o no? Ciao Stefano, ciao, e buona domenica ai tuoi ascoltatori. Ero qui che urlavo nell'attesa, cantavo, ma io sono in centro a Milano e quindi cantavo a squarciagola dal mio cellulare. Vedi che il cambiamento è già iniziato. Assolutamente sì. Cambieranno delle cose, infatti, nel nostro palinsesto. Domani ci sarà per esempio il gazzettino del Risorgimento a mezzogiorno, poi il sabato ci sarà una versione nuova di 2024, come le tecnologie ci cambiano la vita. Parleremo anche di videogiochi, per cui insomma qualche cambiamento. Poi ci sono altri programmi, uno sui viaggi, che entreranno a far parte del palinsesto del sabato, ma anche Nicoletta Carbone parlerà di cambiamenti proprio domani. Sì, si cambia, cambiamo continuamente, anche nel corso della nostra giornata, le emozioni ci cambiano tutte le volte che incontriamo una persona che ci dà qualche cosa, si attua un piccolo cambiamento, poi ci passa sicuramente anche gli anni, ci segnano e ci cambiano, ma cambiare è veramente una palestra magnifica e noi cambieremo il nostro programma sempre all'insegna del benessere per ritrovare i tanti ingredienti che compongono questa ricetta magnifica e naturalmente conto sull'aiuto dei nostri ascoltatori e conto sull'aiuto dei miei amici, quindi conto su di te, Stefano. Ecco, va bene, tra l'altro io siccome io conto invece su di te, io subito ti leggo un messaggio che è appena arrivato, perché oggi parlano di cambiamenti, molti ascoltatori hanno raccontato anche il loro desiderio in qualche modo, no, di cambiare. Sai che all'inizio dell'anno ci sono sempre i buoni propositi o il proposito di una vita, e una signora che non si firma a 63 anni dice: io desidero da tutta una vita cambiare, ma dove posso andare con 1252 euro di pensione, e sono sicura però che mia figlia e mio marito mi seguiranno. Che cambiamento deve fare secondo te? Allora, lei deve innanzitutto guardare dentro se stessa e sentire quella vocina che gli indicherà la direzione, e poi può sicuramente ascoltare ogni giorno Essere Benessere, perché noi daremo sempre delle ricette anche personalizzate per stare meglio, quindi il cambiamento migliore è quello che ci aiuta a stare più vicini al nostro essere. E quindi alla signora la invito domani alle 11 dopo il GR ad ascoltare Essere Benessere. Ecco, quindi magari il cambiamento può essere semplicemente cambiare i piatti della quotidianità, comprarli con i fiori e non bianchi, magari come li aveva prima, senza dover per forza cambiare casa o cambiare completamente vita. A volte basta poco. Profumo vuol dire anche, no? Cambiare una piccola abitudine. È vero. Cambiarsi dei fiori. Io per esempio fare un sorriso in più. Ho notato una cosa. Questo è un cambiamento magnifico. È vero, sai che ho notato una cosa, poi ti lascio. Quando, dimmi se tu da donna, poi hai anche delle figlie, per cui me lo puoi dire. Quando le donne stanno per lasciarti, si tagliano i capelli. Si tagliano i capelli? Sì. È una cosa che ho riscontrato costantemente. Quando le donne stanno... Per rinnovamento, sì. Vero? Quindi fai qualche cosa che ti, guardandoti davanti, mettendoti davanti allo specchio, ti fa sentire diversa, ti fa vedere diversa, che si taglia i capelli, che si compra un rossetto. Ma questo perché noi donne riusciamo tante volte a... così trovare energia anche dalle piccole cose. Bastano i piccoli cambiamenti. Ecco. Quindi seguite l'esempio di noi donne. Sì, certo, a volte però noi uomini dobbiamo stare attenti. Quando vediamo le fidanzate che cambiano un po' troppo, c'è qualcosa che non va, e quindi bisogna poi ricucire. Grazie Nicoletta Carbone, a domani. Grazie a te, Stefano, vi aspetto 11. Domani dopo il GR delle 11. Buonissima domenica da Ciao. Nicoletta Carbone. Grazie Ciao. Ancora, Essere Benessere. E a questo punto altro tra i nostri protagonisti. Il gastronauta. Davide Paolini, hai un buon proposito per quest'anno o mica tanto? Ma il proposito dovrebbe essere magari quello di mangiare meno e di mangiare meglio. È sempre un proposito che mi porto sempre avanti, poi magari molte volte non lo rispetto perché se sono abbastanza goloso, e allora sui dolci ho delle tentazioni molto forti, sui salumi anche, e mi rendo conto che dovrei mangiarne sempre meno, insomma. Se però mangiare meglio si può, ma ormai ci stiamo riuscendo. Sì, ci stiamo riuscendo, però quando vedi e senti e ascolti in televisione o alla radio cosa succede con queste uova, non farmici pensare, che arrivano dalla Germania, e allora ti pensi che molti controlli anche in paesi molto così attenti come la Germania sfuggono, e ti chiedi sempre di più cosa stai mangiando, e quindi questo ti dà molte preoccupazioni, perché la diossina torna spesso fuori. Vorrei ricordare che ci sono stati dei casi: polli alla diossina, prosciutti alla diossina, ora uova alla diossina. Insomma, la diossina sembra diventata ormai un qualcosa che ci segue costantemente nelle tavole. Allora credo che i propositi siano sempre di controllare di più all'origine i prodotti che mangiamo. Credo che questo dovrebbe essere un impegno non del consumatore, ma dovrebbe essere un impegno sicuramente sia del produttore che chi controlla i produttori. E il consumatore dovrebbe sicuramente stare molto più attento alla provenienza dei prodotti e cercare sempre di mangiare quelli più vicini, quelli più freschi. Non voglio parlare di chilometro zero, attenzione, perché secondo me molto più vicini vuol dire anche prodotti italiani e quindi anche a centinaia di chilometri, però che sono vicini, che sappiamo magari da chi sono stati controllati. Ecco, questo caso delle uova di questi giorni veramente mi ha molto preoccupato, perché mi ha fatto tornare indietro nel tempo. E mi chiedo anche qual è la nostra produzione di uova rispetto al nostro fabbisogno. Se importiamo certe merci solo perché c'è un differenziale di costo, o se ne importiamo semplicemente perché non arrivano nei mercati. Questo è un altro interrogativo, secondo me, da porsi con molta attenzione e molta profondità. Ecco, noi tra l'altro imponiamo anche per moltissimi prodotti l'elenco della filiera, per cui insomma sappiamo la provenienza. Tu pensi che i consumatori comunque la leggano sull'etichetta o no? Ma guarda, io vado spesso anche nei supermercati e guardo con attenzione un po' le persone, perché mi interessa un po' vedere i loro comportamenti. Io vedo che molta gente va di fretta perché ha poco tempo, quindi butta nel carrello cose che gli servono, magari anche cose superflue. Vedo poca attenzione a leggere le etichette. Se uno va a vedere le etichette, per esempio, delle carni nei supermercati, si accorgerà che dice che quel vitello è nato in Germania. Infatti c'è scritto proprio tutto. Sì. È stato allevato in Francia, è stato macellato in Italia, e ci sono, cioè le informazioni ci sono, nelle uova no. Ci sono e non ci sono. Se tu acquisti un uovo, vedi che ci sono sigle che durano, cioè ci vuole mezz'ora a vedere tutte queste sigle. E perché sono il rimando numeri. È sulla scatola, tra l'altro, c'è il numero? No, sulla scatola c'è solamente di solito quando sono state covate, diciamo, sì. Così, è il tempo di durata. Però sull'uovo, proprio sull'uovo, sulla materia prima, c'è una sigla lunghissima, fatta di lettere e di numeri, che ci vuole un prontuario per leggere. Attraverso questo prontuario, oppure chi lo sa a memoria, ma sono pochi, tu puoi ripercorrere tutta la filiera di quell'uovo. Solo che bisognerebbe andare a far spesa con un prontuario. No, faremo un'applicazione per i nuovi telefonini, l'ultima generazione, dove tu, inserendo il codice che hai trovato, siccome si connettono alla rete, ti dicono anche tutta la filiera. Questa la provenienza potrebbe essere un'idea, perché con di molti riesce a arrivare anche all'azienda e avere tutte le informazioni sull'azienda, e in certi casi anche delle immagini sull'azienda. Quindi sicuramente con la tecnologia si stanno facendo dei passi in avanti, e speriamo che servano veramente per controllare ciò che mangiamo. Potrebbe essere una gran cosa, ma io so che arriveremo prima o poi ai codici a barre, col telefonino li guarderemo e ci arriveranno le informazioni direttamente di tutti i tipi, dal prezzo alla provenienza. Sono sicuro che andremo in questa direzione, e ti vorrò vedere alle prese con questi apparecchi, Davide. Vabbè, io dico sempre che l'uomo non è ciò che mangia, la famosa definizione di Feuerbach, ma l'uomo è ciò che immagina o pensa di mangiare. Che è importante, anche perché quanto è importante il cervello, allora, a questo punto, metti. Certo, è importantissimo, non importante. È quello che fa tutto, ma non c'è solo lui, poi c'è anche davvero quello che mangiamo, purtroppo, e come in questi casi dobbiamo stare attenti. Grazie, Davide. A presto. Buona domenica. Davide Paolini, che sentiamo ogni giorno con le sue pillole e poi il sabato. Tra poco invece giocheremo con il mistero in 24 minuti. Il riposo del guerriero. Siamo pronti con il nostro cronometro e con la vostra soluzione, almeno spero. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere in libri, CD, DVD e altro, se riuscite a risolvere immediatamente il mistero. Se no, più indicazioni ascolteremo, più indizi, e più il premio si abbasserà. Il numero verde 800 24 00 24, la soluzione, un personaggio oppure una notizia della settimana. Il primo indizio, eccolo qua. Che disco, il primo indizio di oggi. Guido da Roma, ciao. Ciao, buongiorno. Quanti anni hai, Guido? Scusa se ti faccio... 33 compiuti oggi. Allora... Chissà, devi portarti a casa i 1000 euro per forza. No, te lo chiedo perché questo era un po' il ballo del mattone, no? Ci si abbracciava, si cominciava, però dipende dall'età e non so se tu rientri. Era dell'82 questo. Ho un vago ricordo di questo pezzo perché poi eri un po' piccolo. Mi è stato trasmesso anche dopo. No, sì, infatti, ma eri piccolo, ci vorrebbe qualcuno un po' più grande. Comunque, Guido, questo è Hard to Say I'm Sorry, e cioè è difficile dire mi dispiace. Poi sai, l'amore è non dire mai mi dispiace, come insegna Love Story. Erano in Chicago. Questo era il primo indizio di oggi. Cosa vuoi fare, Guido? Voglio dare una risposta. Ci provo. Allora proviamoci. Potrebbe essere Dan Peterson. Perché? Ma per appunto questa canzone dei Chicago, poi si è parlato molto in questi giorni del suo diventare allenatore della squadra di basket di Milano. E siccome sono un fan del lato destro il titolo, il titolo in italiano è Hard to Say I'm Sorry, difficile dire mi dispiace, ma semplicemente ok, va bene, comunque è una risposta e grazie Guido. Ok, grazie. Chi lo sa, potrebbero essere anche tu ai 1000 euro, lo sai, no? Vediamo. Chi lo sa. Grazie, buona domenica, ciao, ma lo scopriremo solo al 24esimo minuto. Enzo da Reggio Emilia. Ciao. Ciao Enzo, è difficile dire mi dispiace? Beh, dipende dalle situazioni. Ma a te è mai capitato di avere qualche difficoltà? No. Ma non molto. Ma no. Perché non dici mai mi dispiace o perché fai sempre capito? No, quando ci sta, ci sta. Ah, va bene, allora Enzo, cosa vuoi fare? Vuoi dispiacerti e ascoltare un altro indizio? Mi dispiace il fatto che secondo me la soluzione è già stata data, perché l'indizio secondo me era il nome del gruppo che cantava la canzone prima. Provo se si può, proviamo a ascoltare un altro indizio. Va bene, eccolo qua il secondo indizio. 74, 75. Persi di vista i Connells, avevano fatto questa canzone bellissima 74-75, però poi ho persi di vista, non so tu Claudio, Enzo, scusami. Secondo me sono stati anche una meteora, perché anch'io mi ricordo solo quella canzone. Vedi, qui chissà perché, ci sono delle persone, dei cantanti, dei gruppi che poi hanno fatto anche altro, dovrei andare a controllare che cosa abbiano fatto dopo, però insomma questa ce la ricordiamo. Allora Enzo, la tua risposta. Mi sembra che erano americani anche loro. Restiamo in America e diciamo il fatto che appunto che in Mozilla Firefox qua è riuscito a battere come numero di diffusione uso Internet Explorer. Qua in Europa è diventato il programma per navigare su internet più usato. Ecco, vediamo cosa succederà con il 9, però adesso è così, lo dicono i numeri. Bravo per la risposta, grazie Enzo, davvero. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao. Claudio da Padova, buona giornata. Buona giornata. Ciao Claudio, ti ricordavi Connells? Sì, sì, mi ricordo. Ballavi con Hard to Say I'm Sorry? No. Per quello ero un po' piccolo. Questo mi fa piacere però, Allora, no, per quelli che i nostri ascoltatori, esatto, hanno una media di 30 anni, che è una cosa che va benissimo. Allora, e non sono mica carampane come me, Claudio, che cosa vuoi fare? Dare una risposta oppure... Io avevo in mente Dan Peterson, ma l'hanno già detto. Posso dire la notizia del ritorno di Dan Peterson sulla panchina? Grazie Claudio, buona giornata. Buona ciao, giornata. Ciao, ciao, ciao. Tania da Padova, buongiorno. Buongiorno. Ciao Tania. Ciao. Allora, cosa vogliamo fare? Allora, io darei la risposta. Anche tu, ecco, schiodiamoci, speriamo da tutto. E cosa mi dici? Allora, io direi che il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Grazie Tania. Ma sei dovuto scusare di qualcosa? Così. No. No, però ti è venuto in mente lui. Va bene. Grazie. Ciao Tania. Carla da Roma, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Allora Carla, Mi hanno già bruciato la risposta, perché anche secondo me era Dan Peters. Però comunque, secondo te, magari no. Magari no. Allora io dico Elton John, che anche lui adesso non so se ha 75 anni come Dan Peters, perché comunque insomma in età così avanzata, ha avuto un figlio, poi insomma non si sa se è suo o del suo compagno. In entrambe le situazioni non potrebbero essere di nessuno dei due, cioè nel senso che qualcuno l'ha dovuto fare. Il figlio proprio, che si dice sia suo, ecco, insomma. Chi lo sa, non lo so, non ho letto, e questo fa però capire che non può essere, scusa rido perché in qualche modo ho detto che non è la risposta giusta, non dovevo dirlo, però mi è venuto. Vabbè, però Carla, grazie lo stesso, adesso grazie. Vado con me, messo una curiosità, grazie Carla, ciao, buona giornata. Parlo troppo. Gian Piero dalla provincia di Varese, ciao, buongiorno. Ciao e buon anno. Grazie anche a te. Tu la ballavi Hard to Say I'm Sorry, questo lo so. Ero dell'età giusta. Hai visto? 42 anni, quindi. Va bene, dai, la ballavamo. Oh là! Siamo allora, poi così vecchi. Dimmi Gian Piero. Io già dal primo indizio ho pensato a una cosa, e è una persona, un fatto. Sì. E pertanto, anche se poi ne è arrivata un'altra canzone che magari potrebbe far cambiare idea, rimango della stessa idea. Vai così. Sì, rimango fedele, anche perché era una buona notizia di questa settimana. Finalmente, tu dici, bisogna cominciare l'anno anche bene, perché abbiamo cominciato in un modo. Allora, dalle parti del Veneto, un artigiano pieno di debiti si è improvvisato ladro. E ha preso l'arma, è andato in una tabaccheria e voleva rapinare. Nel momento in cui si stava facendo consegnare i soldi si è pentito, e di fatto è come se avesse chiesto scusa e si è costituito i carabinieri. È molto vero, infatti poi. Quindi comunque penso che al di là delle altre risposte, degli altri concorrenti, poi magari può anche essere sbagliata questa. Penso che sia una buona notizia per iniziare l'anno. Ecco, è un eroe dei nostri giorni, diciamo così, in qualche modo lo è sicuramente, perché insomma per cercare di vincere la battaglia dei debiti, nella quale molti si trovano, ha compiuto un gesto in qualche modo insensato, ma non è riuscito a metterlo, appunto, a compierlo assolutamente. Anzi, è stato arrestato. Poi non so come sia andata la faccenda, ma credo che alla fine è stato arrestato. E questo per forza, perché la legge lo impone, però poi non credo che la cosa sia andata avanti. Non lo so. Però chissà se Gramellini, per esempio, che aveva scritto sulla stampa di questa storia, l'ha raccontata anche ieri, a Che Tempo Che Fa. Sì, l'ha raccontato anche ieri. Ci dirà poi come è andata a finire. Ci informeremo, perché comunque siamo curiosi più che altro per rendere onore a chi sa comportarsi da uomo. Grazie Gian Piero, buona giornata, buon anno ancora. Barbara, no, prima, scusatemi, gli aggiornamenti sul traffico, poi torniamo con Barbara. Strade in diretta. Il traffico è intenso e rallentato, scusate, sulla carreggiata sud della 22 del Brennero tra Egnaora e Alavio. Si formano code per il traffico intenso anche all'uscita di Saravalle Scrivia sulla 7 in direzione Genova e all'uscita di Valmontone sull'Autosole verso Roma. Sempre in A1 si resta in coda ora anche alla barriera di Milano Sud in direzione del capoluogo lombardo. Traffico scorrevole sul resto dei percorsi, prudenza però, la nebbia riduce ancora la visibilità in diversi tratti lungo la 14 Adriatica e sull'Autosole tra Monte San Savino e Chiusi. A nord banchi di nebbia sulla 4 in Piemonte, Veneto e Friuli e sulla 22 del Brennero tra Mantova e Verona. Deboli nevicate inoltre sono in corso tra Courmayeur e il Monte Bianco sulla A5. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Barbara, hai voglia di risolvere questo mistero oggi? Sì, buongiorno. Buongiorno, ciao, buon anno. Grazie. Hai voglia di risolvere questo mistero? Sì, sì, io pensavo, sai, vi sento un po' male perché sono in macchina, ma sì. Pensavo a Marchionne, America e divisione della Fiat. Grazie, brava Barbara, ciao, buona domenica. Ciao. Francesco da Modena. Sì, buongiorno, ciao. Ciao, è la radio alta ma è spenta in questo momento. Sì, l'ho spenta. Io vedo tutto. Ho scoperto. Ho una sfera di cristallo. Allora, Francesco, cosa vogliamo fare? Abbiamo scoperto due indizi soltanto, siamo ancora a 500 euro. Io mi butto. Anche tu ti butti. Allora la tua risposta. Perché non ho idea. Bello. E quindi non voglio passare molti premi. E dico Ignazio La Russa. C'è un motivo particolare? Ma per il fatto che ho dovuto ritornare sulle sue parole nella vicenda dell'alpino morto, ho dovuto, insomma. Va bene, grazie. Grazie Francesco. Buona giornata. 800 24 00 24, abbiamo ancora degli indizi per voi, il premio è ancora 500 euro però. Silvia da Milano. Pronto? Ciao Silvia. Ciao. Cosa vogliamo fare? Voglio sparare la risposta. Anche tu, basta che non si faccia male nessuno. Ok Silvia, vai. No, comunque è diversa da tutte le altre. Oh, finalmente, sì. Allora, io ho pensato a Carla Bruni, che si è messa un po' in questa gaff internazionale. Ma chissà se ha detto veramente qualcosa o meno, lei dice di no. Infatti, però ha dovuto comunque chiedere scusa ufficialmente. Certo. Questo è il motivo per cui ho pensato a questa cosa col primo indizio. Stiamo parlando della vicenda Battisti ed è curioso, esatto, che nessuno l'abbia ancora nominata, ma forse gli indizi non portano a quello, chi lo sa, ma magari a lei sì. Proprio alla nostra Carla Bruni, dico nostra, poi insomma è loro, ormai è francese. Grazie Silvia. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Laura da Rieti. Buongiorno. Cosa facciamo? Grazie. Sì. Carla Bruni, diciamo la nostra o la loro? Come preferisci tu? Ma io direi proprio la loro. La loro, va bene. Allora, la sento molto nostra. Prendiamo le distanze come lei l'ha fatto dall'Italia, ecco, va bene. Allora, teniamo magari la sua bellezza come nostra. Non ne abbiamo bisogno, ce ne sono tante belle in italiano. Sì, anche. Sì, sì, anche dentro magari. E veramente anche io volevo dare la stessa risposta dell'ascoltatrice precedente, perché ho pensato da subito alla vicenda Battisti e ho pensato a questa retromarcia di Carla Bruni che, non lo so, per istinto, forse perché mi sta un pochino antipatica, ma però dai, ho pensato subito che sia stato vero. Strano, è simpatica a tutti, Carla Bruni, non capisco come mai. Vabbè. Forse lo è. Va bene, allora Laura, va bene. Quindi che risposta diamo però, perché lei già, l'hanno già data? Dunque, allora potrei dire che cosa? Puoi anche sentire un altro indizio se vuoi. Ma sì, facciamo così. Ma scendiamo a 300 euro, perché no? Eccolo qua il terzo indizio. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Laura, hai fatto il movimento pelvico che è d'obbligo, Sì, ma non ha portato frutti, perché onestamente non mi viene nessuna risposta calzante con l'ultimo indizio, quindi non saprei. Niente. Nessuna risposta. No. Laura, grazie però. Grazie, buona Ciao. Giornata. Laura, la stessa voce di Francesca Dragotto, ma non era lei, era proprio un'altra persona. Jonathan da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Devo ammettere che l'ultimo indizio mi ha letteralmente sviato, ha mandato un po' in crisi perché l'ho messo apposta. Grazie. E anche abbiamo abbassato il monte premi, comunque va bene, non cambia niente. No, io ero partito con una visione calcistica, quindi Leonardo, Hard Say I'm Sorry ci poteva anche stare. Poi ho anche degli altri indizi se vuoi. Ok. Difatti il mio istinto sarebbe da dire Leonardo, avevo una tipologia di personaggio che era tipicamente americano, che era il segretario, credo sia il segretario di Barack Obama, che ha lasciato l'incarico per seguire con un'azienda privata di nuovo la prossima campagna elettorale. Ecco, però devi ovviamente dare una risposta solo. Esatto. Leonardo. Il cuore mi dice Leonardo, mi ha detto subito Leonardo. Non parli di Da Vinci, ovviamente, vero? Ti riferisci al calcio? No, per essere chiari, non parli di Leonardo, vero? Di Da Vinci, voglio dire, ti riferisci al calcio? No, anche se sono un fautore di Leonardo, da costruttore, da geometra, sono un fautore ammiratore di Leonardo Da Vinci, ci mancherebbe. No, Parliamo di Leonardo, ovviamente, perché il primo indizio è I'm saying I'm sorry. Poi non so che collegamento ci possa essere con i Connells, però comunque magari però col quarto indizio sì, anche se non l'abbiamo ancora ascoltato, poteva esserci. L'istinto è stato subito Leonardo, e quindi poi vediamo, insomma. Grazie, dai. Jonathan, buona domenica, giornata, ciao. Grazie. Filippo della provincia di Bari, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Eccoci qua, cosa vuoi fare? Siamo un po' gli sgoccioli. Mi gioco l'altro indizio, perché al momento tutti gli indizi precedenti portano solo a Dan Peterson. E allora, numero degli anni di Peterson, la traccia iniziale, tutto lì. Allora giochiamoci il quarto, eccolo qua. Basta un tuo sorriso che mi sento già così sereno. Oggi partiamo, oggi voliamo, e mano nella mano andiamo lontano. Questa paura di stare bene insieme, una bugia degli uomini per non soffrire. Ora siamo di nuovo qua, come qualche anno fa, su questa panchina. Tempo scaduto, Filippo, e questa era una canzone di Jacopo Rattini, su questa panchina. Sì, un brano dell'ultimo Sanremo, ma mi porta a pensare una volta di più che si tratti del ritorno di Dan Peterson sulla panchina di Milano. E l'hanno già detto, Filippo. Sì, infatti, non è un vero indizio che porta quella strada. E quindi ti saluto, grazie, sì, Filippo. Sì, grazie, ciao, ciao. Guido da Roma, buongiorno ancora. Buongiorno. La tua risposta era Dan Peterson. Sì, era giusto. Claudio da Padova. Buongiorno. La tua risposta era Dan Peterson che ritorna, c'è la notizia invece. Sì. Allora, Hard to Say I'm Sorry dei Chicago è vero, l'indizio era proprio quello. Chicago, perché Chicago è capitale dell'Illinois, e Evanston, dove è nato Dan Peterson, insomma lui è un grande fan dei Chicago. Poi, 74-75, perché nel 74 vinse la Coppa Italia col Bologna. Elvis, perché ha detto di essere come Elvis Presley, intramontabile. Ma era il quarto indizio che gli faceva capire qual era la risposta giusta, ovvero questa canzone di Jacopo Rattini, su questa panchina. Mi dispiace, Guido, il vincitore è Claudio. E la risposta infatti era la notizia e non il personaggio. Mi dispiace, Guido. Guido non c'è più, ecco. Niente, ciao, ciao. No. Per un attimo so che ha sofferto. Claudio. Grazie, buongiorno. Niente, a te, sono andata bene, perché l'errore di Claudio, di Guido, ti ha aiutato a dare la risposta giusta, ovviamente, se no saresti anche tu. Sinceramente avrei detto anche io avrei detto Dan Peterson nel personaggio, infatti. Però, insomma, grazie al suo errore, dovresti dividere. Per essere onesto, tu dovresti dividere con Guido il premio. Io te lo dico, insomma, questo è buon proposito del 2011. Solidarietà. Ciao, grazie, ciao Claudio. Ciao, grazie. Buona giornata. E così si risolve anche il mistero in 24 minuti, grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Margherita Aina, Filippo Aureggi in regia. L'appuntamento con Il Riposo del Guerriero è per domenica prossima alle 10. Buona domenica da Stefano Gallarini.